si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buon sabato a tutti, ben ritrovati in diretta come si può fare dopo una pausa per il periodo pasquale delle dirette. Ci ritroviamo in diretta, vi ricordo subito i nostri contatti se volete interagire in tempo reale con noi, l'account Twitter del programma è chiocciola, si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi, siamo anche su Facebook, si può fare trattino Radio 24 e adesso andiamo subito a svelare la parola chiave per il nostro contest, inviati cercasi di questa settimana, la parola è... Legalità, legalità, legalità. Se avete delle buone notizie che riguardano il mondo della legalità, dalle campagne contro il pizzo, le imprese che pagano il pizzo, alle iniziative delle imprese, in questo senso oggi ne parleremo, c'è una nuova iniziativa di Confindustria Sicilia, alle scorte civiche dei magistrati, associazioni nel vostro quartiere, nella vostra città che riguardino la legalità, scriveteci, avete tempo fino a mercoledì, ci potete scrivere sulla mail si può fare @radio24.it. La proposta di notizia più bella verrà chiamata sabato prossimo per essere raccontata in diretta da voi. Oggi invece raccoglieremo la vostra proposta per quanto riguarda il tema che avevamo proposto settimana scorsa, cioè la scuola. Lo sentiremo la scuola dopo il GR delle 9. Ma adesso andiamo ad iniziare come ogni mattina con una buona notizia. And now the good news. Più che una buona notizia, questa volta si tratta di un annuncio. Potete fare le vacanze gratis per una settimana a Ponza se in cambio date un po' di lavoro per ripulire l'isola. È l'iniziativa della Proloco di Ponza, che può interessare alcuni di voi. Questo è il testo dell'annuncio sul sito della Proloco. Aiutateci a pulire l'ambiente, ti ospiteremo per 5 notti, 6 giorni sulla nostra isola. L'ambiente tra le risorse primarie per fare turismo, se non lo salvaguardiamo e aiutiamo a metabolizzare tutte le nostre incurie ambientali, un giorno vedremo che tale risorsa potrebbe venir meno e con essa l'esperienza turistica in un luogo interessante e accattivante sia dal punto di vista geografico che naturalistico. Come non condividere queste parole? Allora l'invito è a 4 volontari ogni settimana per tutto il periodo estivo, si lavora 6 ore e in cambio si ottiene dal comune di Ponza ospitalità e vitto e alloggio gratuiti in un'isola meravigliosa per fare delle vacanze alternative. Tutte le notizie le trovate sul sito della Proloco di Monza. Di Ponza, non di Monza. Naturalmente. Beh, insomma, con l'avvicinarsi del periodo estivo, perché no? Un suggerimento per una vacanza che sicuramente sarebbe da ricordare, una vacanza diversa e che costa meno di questi tempi. Un suggerimento, credo, prezioso. Ma andiamo a vedere che cosa c'è sulle prime pagine dei giornali di oggi. Si discute un po' dell'appuntamento che aspetta oggi Renzi al Quirinale per incontrare Napolitano. Si farà il punto delle riforme dopo il mezzo stop annunciato da Berlusconi, si parla anche ancora di quello che accade in Ucraina, delle tensioni con la Russia e altre cose. Cominciamo con il Corriere della Sera, Renzi al colle per le riforme, il Premier dice ce la faremo Boschi e Alfano anche senza Forza Italia, Berlusconi dopo l'affondo in TV però corregge, io rispetto i patti anche se non sono il chierichetto di Matteo. In questa prima parte di rassegna leggiamo un po' di titoli, poi più avanti vedremo qualche intervista, qualche approfondimento, perché adesso abbiamo poco tempo. Scene di lotta di classe sotto l'Everest, la fotonotizia del Corriere, dove ci sono tutti gli Sherpa, gli alpinisti, sapete, sull'Everest, che sono in fibrillazione. Gli Sherpa sono in sciopero e gli alpinisti se ne vanno. Gli Sherpa dell'Everest sono in sciopero, scrive il Corriere. La stagione delle salite sul tetto del mondo è bloccata dopo la morte di 16 guide uccise da una valanga. Quella degli Sherpi è una vera e propria avvertenza sindacale, vogliono giustamente avere stipendi maggiori, a cominciare anche dalle indennità per le vittime, le famiglie delle vittime, delle 16 vittime, vogliono un'indennità maggiore di quella proposta dal governo, $400, ma siamo arrivati a 15.000. Questa è la vicenda che ha colpito un po' anche l'Occidente, abituato a seguire le scalate degli alpinisti sul tetto del mondo. Dicevamo l'Ucraina, scrive il Corriere, presto nuove sanzioni contro Putin, fermati 13 osservatori internazionali. La Casa Bianca telefona agli alleati, conference call dai leader di Inghilterra, Germania, Francia con lo stesso Obama. Nel frattempo Kiev dice Mosca vuole la terza guerra mondiale. La preoccupazione dell'Ucraina è il titolo principale anche di Repubblica. Ucraina e battaglia, Kiev, Putin vuole una guerra mondiale. Poi vi segnalo su Repubblica il commento di Joaquín Navarro Valls, l'ex portavoce di Papa Wojtyla. Wojtyla, il Papa Allegro che parlava con Dio, un commento sul quello che sta per accadere, la canonizzazione dei due papi. Leggeremo più avanti, dopo il GR delle 8, un pezzo di questo intervento interessante di Navarro Valls. La Stampa, una foto notizia anche qua, cara Michelle, c'è la foto di Michelle Obama che abbraccia una bambina di 10 anni, Charlotte Bell, alla Casa Bianca ieri. Cara Michelle, trova un lavoro al mio papà. La piccola Charlotte, che commuove gli Stati Uniti e la First Lady, ecco il curriculum del mio papà, è disoccupato da 3 anni, aiutaci a trovare un lavoro. Il dramma della disoccupazione ormai riguarda, insomma, tutti i paesi più sviluppati, tranne quelli che continuano a crescere come la Cina o l'India. Notizia che riguarda invece la Thyssen, la Cassazione: non ci sarà prescrizione. A un giorno dalla decisione della Cassazione, che ha confermato le responsabilità ma ha detto che le pene andranno ricalcolate, c'è un'intervista anche al PM Guariniello e un approfondimento della Stampa per spiegare cosa accadrà adesso alle condanne ai manager, ai manager della Thyssen Group. Dopo questa decisione della Cassazione, anche di questo parleremo più avanti. Solo il titolo del Sole 24 Ore: Fitch, buona notizia, l'Italia migliora ma la crescita è fragile, il rating resta BBB+, l'outlook però da negativo a stabile. Questa è una buona notizia. Ci fermiamo, facciamo una breve pausa, rassegna stampa europea, giornale radio, e poi torniamo anche noi dopo. Si può fare cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati, eccoci qua in diretta con Si può fare, e vi ricordo ancora, dopo la prima parte del programma tra le 7.30 e le 7.45, la nostra parola chiave per il gioco di questa settimana, Inviati Cercasi, anche l'hashtag che usiamo su Twitter, Inviati Cercasi, cerchiamo inviati a caccia di buone notizie. La parola chiave è legalità, quindi se avete buone notizie che riguardano il mondo della legalità, scriveteci, avete tempo fino a mercoledì, iscriverci a Si può fare @radio24.it, oppure ci trovate su Twitter @ Si può fare 24, il mio @ Ale Maurizi, questi sono i nostri account. Se avete notizie, associazioni, movimenti, scorte civiche, campagne contro il pizzo, tutto quello che volete che riguardi il mondo della legalità, scriveteci, e sabato prossimo il racconto più bello verrà mandato in onda questa settimana. Tra poco, tra un'oretta circa, avremo il racconto che riguarda il mondo della scuola. Vi avevamo chiesto buone notizie per quanto riguarda la scuola la settimana scorsa, anzi 2 settimane fa, perché c'è stata la pausa pasquale. Questo lo sentiremo, anzi una notizia ve lo anticipo che riguarda l'Emilia Romagna, lo sentiremo dopo il GR delle 9, ma adesso andiamo a dare ancora una volta un'occhiata alle prime pagine dei giornali. Riprendiamo da dove avevamo lasciato una mezz'oretta fa, e con qualche approfondimento che avevamo annunciato. Allora, intanto, per quanto riguarda il nodo riforme, Renzi al colle per le riforme, Berlusconi dopo l'affondo in TV, scrive il Corriere, io rispetto i patti ma non sono il chierichetto di Matteo. C'è una intervista, interessante intervista di Schifani, l'ex presidente del Senato, attualmente nel nuovo centrodestra, che in qualche modo avverte Renzi e dice: il premier non cada nella trappola di Berlusconi, Silvio è ancora ondivago come ai tempi della bicamerale di D'Alema. Suggerisce a Renzi di rompere con Berlusconi? Gli chiede l'intervistatore. Risponde Schifani: Renzi mi ha detto che intende governare fino al 2018. Io mi fido, noi siamo interessati a realizzare un buon programma come prova di responsabilità nell'interesse del paese. Per questo l'intesa di maggioranza deve prevalere rispetto alle intese esterne. Le buone riforme, anche senza la maggioranza dei 2/3, devono però passare dal bagno di democrazia del referendum per essere confermate. avanti senza i voti di Berlusconi, dunque. Renzi fa bene, dice Schifani, a cercare l'intesa più ampia possibile, ma deve stare attento. Io non credo che il patto con Berlusconi sia un elisir di lunga vita. Se Renzi non si lasci irretire dalla tela di Berlusconi, stia attento a non cadere nella trappola e si ricordi della bicamerale. Ha paura che Renzi possa fare la fine di D'Alema? Gli domanda Guerzoni. E lui risponde, Schifani, io c'ero in commissione Berlusconi, votò un testo e un mese dopo in aula lo disconobbe. Dunque l'avviso di Schifani a Renzi: non ti fidare di Berlusconi, che è destinato a cambiare idea, quindi non è con lui che puoi fare le riforme. Questo per quanto riguarda il tema. Poi su Repubblica abbiamo anticipato un intervento di Joachim Navarro Valls a proposito della canonizzazione dei papi. Scrive su Repubblica, il titolo è Wojtyla, il Papa Allegro che parlava con Dio. Scrive Navarro Valls: oggi Papa Francesco celebrerà la canonizzazione di due papi, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. L'evento non ha precedenti, mai è accaduto infatti che un pontefice elevasse sugli altari due predecessori vissuti così poco tempo prima di lui. E nonostante la fama di santità di Angelo Roncalli fosse in vita già ben nota e diffusa, e sebbene tutti ci ricordiamo del grido santo subito dei fedeli nella piazza di San Pietro alla morte di Karol Wojtyla, non è detto che sia così chiaro oggi il perché dei santi e il valore che ha per la Chiesa odierna ricordarli ancora così solennemente. Cioè Navarro Valls dice: perché la Chiesa li fa santi? Ve lo ricordo io, almeno per quanto riguarda Wojtyla. Scrive Navarro Valls: tutti si orientano verso obiettivi quantificabili, perseguendo e inseguendo realizzazioni apparentemente concrete, finendo per valutare gli altri più attraverso i risultati che ottengono che per quello che sono realmente. Ebbene, questa considerazione è l'esatto opposto dell'atteggiamento su cui si è valutata la santità di un uomo o di una donna. Si è santi, si diviene santi, non per quello che, dal punto di vista dell'efficacia, si sa fare di meglio o si riesce a produrre, ma si è santi per quello che si è realmente diventati alla fine della propria vita. Cioè Navarro Valls ci ricorda che la Chiesa beatifica, santifica le persone in quanto tali, non tanto per quello che hanno fatto in concreto. E a proposito delle qualità intrinseche di Wojtyla, la prima, dice Navarro Valls, era sicuramente la preghiera. Pregava tantissimo. Qualche giorno fa un giornalista mi ha chiesto di confermargli se Giovanni Paolo II pregasse davvero 5 ore al giorno. Non lo posso confermare, gli ho risposto, perché in realtà pregava tutto il giorno. Altra qualità di Papa Wojtyla, secondo Valls, è questa: il lavoro. Giovanni Paolo II non prevedeva perdite di tempo né concedeva spazio all'accidia, ma riusciva a fare molte cose una dopo l'altra con precisione e senza impazienza. Indipendentemente dalla stanchezza fisica, in pratica non perdeva un minuto, non aveva mai fretta. Questo a proposito della canonizzazione di Papa Wojtyla, nelle parole di Joachim Navarro Valls su Repubblica. La Stampa invece ci ricorda un'altra vicenda, che è quella della Thyssen. Abbiamo letto il titolo: Thyssen, la Cassazione dice non ci sarà prescrizione, però c'è un po' di confusione dopo la decisione del 24, di due giorni fa, che ha confermato la responsabilità, ma ha detto la Cassazione che le pene andranno ricalcolate da una seconda corte d'assise d'appello. Scrive la Stampa: una certezza c'è, i sei manager della Thyssen sono e resteranno condannati per la strage del dicembre di 7 anni fa nell'acciaieria di Torino. Non c'è prescrizione che tenga. Per il resto, neanche 12 ore dopo la sentenza che ha scontentato i parenti delle 7 vittime di quel disastro e ha fatto tirare qualche sospiro di sollievo agli imputati che già immaginavano un viaggio verso il carcere, è tutto un susseguirsi di ipotesi, calcoli e controcalcoli di chi sostiene che la condanna rischia di crescere e chi invece giura che no, a conti fatti sarà minore. Ezio Audisio, avvocato dell'amministratore delegato di Thyssen Italia, è molto cauto. Aspettiamo che vengano depositate le motivazioni della sentenza prima di sbilanciarci. Il PM Guariniello, invece, che ha condotto questa inchiesta, in un'intervista di oggi sulla Stampa dice così: è stata accolta la nostra prima impostazione, cioè che il reato di omissione dolosa delle cautele antinfortunistiche e quello di disastro vadano considerati separatamente. Le pene previste per l'uno e per l'altro si devono quindi sommare. I reati sono 3, perché c'è anche l'omicidio colposo. Quindi nel nuovo processo adesso noi chiederemo addirittura un aumento delle pene, così dice Guariniello, che è abbastanza fiducioso. Poi la domanda: il dolo eventuale è stato definitivamente escluso, però una sconfitta questa, risponde Guariniello. Non abbiamo convinto la Cassazione, le novità non sono facili da far passare, ma siamo soddisfatti perché è rimasta la colpa cosciente, gli imputati hanno agito nonostante la previsione dell'evento. Questo per quanto riguarda la recente decisione della Cassazione sulla ThyssenKrupp. Torniamo al, anzi, il titolo del Sole 24 Ore: Fitch, l'Italia migliora ma la crescita è fragile, quindi una buona notizia a metà. Italia fuori dalla recessione secondo l'agenzia di rating Fitch, che conferma il rating BBB+, ma alza l'outlook a stabile. L'agenzia dice il programma di riforme del governo Renzi è ambizioso, ma restano criticità per quanto riguarda la crescita bassa e l'instabilità politica. Il Sole 24 Ore ci ricorda anche questo: edilizia, solo 244 milioni per le scuole. Vi ricordate gli annunci di Renzi sul piano per le scuole? Al momento però nel decreto IRPEF, quindi in quel decreto, sottolinea il Sole, ci sono solo 244 milioni di allentamento del patto di stabilità per i progetti di edilizia scolastica nei comuni, meno dei 3,5 miliardi annunciati dal premier Renzi. Ma questo lo dico io, dovrebbero arrivare degli altri annunci specifici, perché il decreto IRPEF si occupava di altre cose. In ogni caso, nel decreto, ci ricorda ancora il Sole 24 Ore, c'è invece un piano di riassegnazione di residui passivi a opere cantierabili. Dunque qualcosa si muove anche nel mondo dell'edilizia scolastica. Titoli diversi, quelli del Giornale per esempio, che scrive: altro che ripresa, riprendendo quanto dice Fitch, l'agenzia di rating. Hanno ucciso le aziende, sono morte 75.000 piccole imprese, è il popolo delle partite IVA snobbato da Renzi. Il premier corre a baciare la pantofola di Napolitano, oggi al Colle si fa dettare la linea. Poi c'è la polemica, il 25 aprile, di chi vuole morti i Marò. A Milano cori vergognosi dei Notav, i centri sociali i Notav ieri in piazza hanno intonato il coro "A morte i Marò". Io non ero in piazza ieri a Milano, ero da un'altra parte, però non ho sentito questi cori, e se ci sono stati sono cori assolutamente stupidi e imbecilli. Credo però che siano lontani dal, anzi sono sicuramente molto lontani dal senso delle manifestazioni di ieri del 25 aprile, sia quelle istituzionali con i partigiani, sia quelle meno istituzionali. Le manifestazioni il 25 aprile è una festa della democrazia, quindi questo odio nei confronti dei Marò, se c'è, è una cosa marginale che riguarda pochi stupidi. L'altro giornale di centrodestra, Libero, scrive: confessione di un finanziere, incasso tangenti per lo Stato. Arrivo io e l'imprenditore sa che è spacciato, paga anche se ha ragione per lo sconto. Di che si tratta? Memorie di un finanziere della polizia tributaria, si potrebbe intitolare così il sorprendente documento esclusivo che state per leggere, scrive Libero. Si tratta della trascrizione fedele alla lettera del disarmante sfogo di un disincantato, onesto e preparato maresciallo della Guardia di Finanza, impegnato da diversi lustri nei temutissimi controlli fiscali. Libero non riporta il nome di questo servitore dello Stato, che dice varie cose, tra cui: nel nostro lavoro ci sono forzature evidenti, imbarazzanti, gli obiettivi da raggiungere sono fissati in anticipo, gli imprenditori accettano di pagare per evitare ricorsi costosi, chi costituisce società di comodo alle Cayman è troppo veloce per noi, ci concentriamo sui soliti noti che operano sul territorio. Già, il fatto è che i paradisi fiscali alle Cayman sfuggono all'attività, credo, dell'Agenzia delle Entrate. Ci vogliono gli accordi internazionali per arrivare sin là, questo lo sapevamo già anche prima delle confessioni di questo anonimo finanziere. Direi che ci possiamo fermare qua, facciamo una breve pausa. 8:30, 800 24 00 24. Potete cominciare invece subito, fin da adesso, a prenotare il vostro intervento per commentare quello che state ascoltando, per raccontarci. Riapriamo i microfoni oggi, dopo una pausa per la Pasqua, alle dirette con che cosa ha reso bella la vostra settimana. E anche oggi in premio mettiamo i biglietti per una mostra, Aesthesis all'origine delle sensazioni, Robert Irwin e Jane Starrell a Villa Panza in provincia di Varese. Dunque biglietti di una mostra nel regalo se ci raccontate che cosa ha reso più bella la vostra settimana. Ci sentiamo tra poco. Si può fare Cronache da un paese migliore. C'è chi dice no, che dice no per esempio alla mafia e lo dice in Sicilia dove ha ancora più valore questo fatto. Parliamo di l'ultima iniziativa di Confindustria Sicilia e già che ci siamo, visto che ieri era il 25 aprile, si parla sempre molto di resistenza, forse se vogliamo attualizzare questo concetto, oggi bisogna resistere soprattutto per esempio per chi sta in Sicilia ma non solo, alla mafia, all'illegalità, insomma a chi gioca non rispettando le regole del gioco. Abbiamo convocato per farci spiegare questa ultima iniziativa che viene dalla Sicilia Carlo La Rotonda, direttore di Confindustria Centro Sicilia. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Siamo ormai felicemente abituati a ricevere lezioni di antimafia dalla Sicilia, dalle campagne a Dio Pizzo, alle iniziative della Confindustria siciliana, alle scorte civiche ai magistrati. Ci sono per fortuna tantissime belle notizie in questo senso. L'ultima riguarda uno spicchio di Sicilia, cioè alcune province del centro della Sicilia, con un'assistenza sul piano legale, economico, finanziario, ma anche socio-psicologico, ed è questa forse una novità per quanto riguarda gli imprenditori che decidono di dire no al pizzo. Ci vuole spiegare esattamente che cosa avete messo in piedi? Sì, allora si tratta di un'idea molto innovativa di creare un desk imprese a Caltanissetta e un altro desk imprese nel territorio di Caserta, quindi un'iniziativa gemella per la Sicilia e per la Campania. L'idea di questo desk nasce nell'ambito di un progetto dal titolo Caltanissetta e Caserta sicure e moderne, del PON Sicurezza per lo sviluppo, un progetto promosso dal commissario antiracket in collaborazione con Confindustria e poi delegato a queste due strutture operative insomma che operano in territori molto, sì, molto difficili. Scusi, ha detto già due o tre cose che meritano di essere spiegate. Sì. Il commissario antiracket a chi si riferisce? È il commissario del governo per il coordinamento, benissimo, delle iniziative antiracket e antiusura. Quindi iniziativa, ecco, un'iniziativa del commissario antiracket fatta con voi, e poi ha citato il PON Sicurezza, che cos'è? Il PON Sicurezza è il programma operativo nazionale per la sicurezza e lo sviluppo dedicato alle regioni del Mezzogiorno, i cosiddetti obiettivi convergenza, regioni obiettivo convergenza, dove è particolarmente sentito il bisogno di alcuni valori quali la legalità, lo sviluppo, la rinascita sul piano non soltanto economico ma anche sociale del territorio, sì, e del contesto. No, mi scusi, le ho chiesto di precisare perché noi non siamo così abituati a frequentare anche questo lessico e quindi era giusto spiegare e specificare di cosa stiamo parlando. Poi in concreto questa iniziativa di sostegno agli imprenditori come si mette in pratica? Sono loro a venirvi a cercare? Siete voi che andate da loro? Entrambe le azioni. Il desk è appunto uno sportello che viene che è insediato nella nostra sede e che mira a dare una serie di iniziative di assistenza, di supporto, di ascolto attivo agli imprenditori. Quindi saremo sia noi a diffondere con tutti i mezzi e anche di comunicazione possibili i messaggi di legalità e le opportunità anche sul piano economico derivanti dalla legalità, ma lo sportello e quindi il personale dello sportello, sì, sarà anche sempre disponibile a ricevere qualsiasi input da parte degli imprenditori. Ecco, ma in concreto gli imprenditori che verranno a chiedere un sostegno, che tipo di aiuto riceveranno da voi? Riceveranno, dicevamo, un aiuto sul piano della consulenza o dell'assistenza di natura tecnico-legale, sul piano economico-finanziario, sul piano amministrativo-gestionale, quindi per quanto attiene proprio alla gestione delle procedure aziendali o dei modelli organizzativi aziendali al fine di prevenire il più possibile qualsiasi rischio di inquinamento, di infiltrazioni della criminalità e di illegalità nell'agire economico, e poi c'è l'aspetto insomma che ha fatto più scalpore, che è quello dell'assistenza psicologica, che in realtà è la chiave del successo, almeno noi auspichiamo che lo sia, di questa iniziativa, perché il profilo forse è più innovativo per quanto riguarda l'azione di un'associazione di imprese come Confindustria. E il supporto psicologico consiste sia nel creare un clima d'opinione stabile e favorevole nei territori che abbiamo citato, ma non solo, perché gli obiettivi del progetto si estendono all'intero territorio, all'intero ambito regionale. Quindi cioè un clima, scusi, voglio precisare questa cosa che mi sembra già importante, un clima di opinione favorevole e stabile in questi territori, cioè lei ci sta dicendo che non è ancora chiaro, non è ancora scontato, non è ancora così forte ed evidente agli imprenditori che denunciano il fatto di avere poi il sostegno davvero della gente, di essere dalla parte giusta, si ha quasi la sensazione a volte di essere delle mosche bianche. Guardi, il problema sul piano psicologico è proprio questo, cioè l'obiettivo è far emergere gli imprenditori da quella insomma cappa di isolamento in cui spesso si trovano, e che è la resistenza più, che rappresenta la resistenza più forte alla denuncia. La denuncia è l'obiettivo finale, ad esempio, di questo nostro progetto, ma senza un contesto economico e sociale di protezione, di sicurezza partecipata, di incoraggiamento, l'imprenditore ha dei forti limiti per arrivare al momento della denuncia. Ovviamente l'assistenza psicologica può divenire anche un'assistenza di natura molto, di carattere molto specialistico, laddove l'imprenditore abbia già superato questa resistenza di cui parlavamo, abbia già trovato il coraggio e l'incoraggiamento di tutti gli attori che operano in difesa della legalità, così come anche il supporto del nostro sportello, e voglia appunto avvicinarsi al personale dello sportello per essere accompagnato in quel lento processo che poi lo porterà dinanzi ad un magistrato. Quindi l'imprenditore non va, il suo interlocutore, anche nel momento in cui esce dall'isolamento, non è detto che sia sempre la caserma dei carabinieri o la questura o il magistrato, ma molto spesso ha bisogno di essere accompagnato in questo percorso, certo, verso poi le persone più competenti ad aiutarlo, che sono le istituzioni, lo Stato. Bisogna però creare questa rete di protezione e di sicurezza attorno agli imprenditori, e per farlo bisogna cambiare culturalmente un intero territorio. Questo non vuol dire che Caltanissetta e Caserta non abbiano già una parte della società civile, anzi, e dell'economia che spinge in questa direzione. Bisogna fare ancora di più, certo. Senta, le posso chiedere anche una sua opinione su questo tema, in quanto insomma esponente importante della Confindustria siciliana, voi che con le vostre imprese gestite quindi una parte importante delle attività produttive, cioè questo problema dei beni confiscati alle mafie che ritorna, se ne è parlato anche recentemente, dicendo che c'è bisogno di una riforma perché si sequestrano i beni e poi non si riesce a gestirli, non si riesce a far tornare per esempio le aziende a redditività, a produttività una volta che si tolgono dalla mano mafiosa. Voi ce l'avete un'idea, un suggerimento da dare per questa riforma dell'agenzia? Guardi, noi siamo molto impegnati su questo tema, che peraltro sarà uno degli ambiti nei quali cercheremo di intervenire concretamente sul piano dell'informazione all'interno del progetto PON, del progetto Caltanissetta e Caserta. Abbiamo una serie di idee, perché riteniamo concretamente che le opportunità di riempiego dei beni confiscati alla mafia debbano essere indirizzate sia alle esigenze sociali, così come è già per legge, ma sia anche, come diceva lei, ha delle esigenze fortemente, diciamo, delle esigenze economiche, in vista della valorizzazione e della messa a reddito di questo enorme patrimonio a disposizione, ma che molto spesso si trasforma in esperienze fallimentari nel vero senso, anche nel senso giuridico, tecnico della parola. È proprio questo il punto che bisogna evitare. Per cui una delle idee che è stata lanciata dal delegato nazionale per la legalità di Confindustria, Antonello Montante, è quella di una cabina di regia, quindi fermo restando a modifiche, insomma, a contesto normativo invariato, già creare sul piano amministrativo una cabina di regia, che faccia parlare tutti gli attori interessati a una migliore gestione di questi beni, quindi sia gli attori istituzionali del settore pubblico, ma anche e soprattutto le banche e il mondo delle imprese per il supporto di natura manageriale, certo, anche semplicemente per il supporto che si può dare sul piano commerciale, cioè per far sì che le imprese confiscate o gestite da amministratori giudiziari possano tornare ad avere un mercato legale di riferimento. È chiaro, quindi insomma il suggerimento che ci state dando e che state dando anche al governo è quello di uscire da una gestione più istituzionale, solo istituzionale, coinvolgendo le banche e gli attori del sistema produttivo, quindi anche le associazioni di categoria, le imprese, per avere tutto quello che serve per far ripartire queste aziende confiscate alla mafia. Grazie a Carlo Rotonda, direttore di Confindustria Centro Sicilia, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi, a risentirci. E allora insomma la proposta, cari ascoltatori, è questa: 800 24 00 24. Tra poco cominciamo a sentire anche i vostri interventi. Resistenza, visto che ieri era il 25 aprile, resistere sì, ma oggi a che cosa? Alla mafia, forse all'illegalità in Sicilia, ma non solo. Traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buon sabato anche a Carlo Gabardini. Ciao Carlo. Buongiorno, ben ritrovato. Buon sabato a tutti i nostri ascoltatori, buon sabato a te. Ieri ti ho twittato per ricordarti di venire in diretta, perché dico, vuoi dire, adesso abbiamo saltato una settimana con Pasqua. Certo. Questo si dimentica. No, non sei mi un uomo dai mille impegni, non sempre in giro. Per niente, anzi direi anche buona liberazione a tutti. E poi in ritardo di un giorno, ieri ero in manifestazione, ovviamente, 25 aprile a Milano. Hai sentito questi cori che oggi il giornale ci ricorda, a morte i Marò? No, non li ho sentiti per niente. E mi sembra una cosa di una stupidità totale. Non so chi abbia potuto cantare questo, tra l'altro proprio alla manifestazione del 25 aprile, che comunque è contigua anche alle forze dell'ordine, ovviamente. È stata una manifestazione bellissima, iper pacifica, credo che non è neanche caduta una bottiglia di vetro per terra, ecco. Quindi non so, che poi dopo che ci siano dei dementi ci mancherebbe altro, cioè, io ovviamente non li ho sentiti, ma che ci fosse un cretino dentro che urlasse qualunque cosa. C'era tanta gente che diceva anche delle altre stronzate, le stronzate che si possono dire in manifestazione sono tantissime. Mi sembra vergognoso, comunque è un peccato, perché invece, ripeto, è stata una bella manifestazione. In più ricordiamo tutti le manifestazioni sotto l'acqua a Milano il 25 aprile, famose dell'ultimo ventennio, diciamo. E in realtà, quindi, già una manifestazione così col sole è proprio bella. Penso che la cosa che mi piace il 25 aprile, che Milano di solito si dice sempre, ah guarda che bello quel posto, a Milano dici che bello, è perché non sembra Milano, che bello oggi questa giornata, perché quando sembra Milano è triste. Esatto. Non va bene. Invece, secondo me, il 25 aprile sembra è proprio Milano. Quel giorno in cui Milano, pur sembrando, essendo profondamente Milano, è bellissima. Questa qua è una frase bella, non l'ho capita del tutto, ma me la segno. Ma l'ho twittata anche ieri, poi quindi secondo me hai un sacco di tempo per rileggerla, magari stamparla. Però è bella, è veramente bella. Allora, 800 24 00 24, tra un attimo sentiamo gli ascoltatori, anzi tra non molto, perché siamo andati un po' lunghi. Carlo, oggi tu cosa allora, ci hai presentato? Allora, ti dico poche notizie, sì. Ti dico, anzi, te ne dico una. Vai. Rivoluzione nel Regno Unito. Il governo Cameron ha varato un piano da 50 milioni di sterline che cambierà il volto del Health National System, cioè il sistema sanitario di Sua Maestà. Sarà coinvolto circa il 10% degli studi medici che potranno offrire ai loro pazienti queste le seguenti cose: la scelta di farsi visitare in orario serale, cioè insomma. Già mi sembra buono, no? In confronto, diciamo, al nostro. Beh, cosa che piano piano si sta facendo anche in alcuni ospedali. Esatto. Prenotare, addirittura anche farsi visitare il fine settimana. Questo. Prenotare appuntamenti online. Questo va detto, da noi non si prenota ancora tanto online, però, per esempio, in Lombardia proprio c'è il numero unico per prenotare, che è un numero incredibile, dove però tu chiami e ti dicono qualunque cosa, ti trovano un appuntamento. Qua però parliamo addirittura del medico di base. Esatto, ma soprattutto arriviamo al vero punto straordinario, che si potrà farsi visitare via Skype. io questa cosa la trovo straordinaria. Cioè che mia nonna non sa neanche cos'è via Skype. No, ok, è vero, è una cosa che, per la quale bisogna ancora educare i pazienti. Via Skype, cioè diciamo via videoconferenza, cioè uno accende metti il computer, la webcam davanti al computer. Infatti si dice Skype, ma può essere credo anche un altro sistema di videoconferenza. Esatto, una sorta di videoconferenza dove uno, tra l'altro, secondo me è molto buono, perché già su internet uno, non so, io sono ipocondriaco, quindi appena ho un sintomo vado su internet e hai tutte le malattie del tutte, mondo, cioè no, se non bisogna andare, leggero caro, mal di bisogna. Schiena, trovi, no, trovi tumore dopo ma più o meno mezzo secondo. Ti dice dica 33, poi la linea è disturbata, non esatto, si sente. Ma quello, ma io mi immagino anche delle scene che sarebbero perfette per qualunque sitcom, ma anche semplicemente mi faccia vedere sotto l'ascella. No, aspetti, non capisco bene, è un arrossamento oppure. Quindi mi sembra, è ovvio che vale solamente per certe cose e non sì, per qualunque patologia, però mi sembra molto vero a volte anche semplicemente per togliersi un dubbio. Il problema di questo è che nel sistema sì, nazionale vero, vero. Inglese è che hanno dei ritardi, credo minori dei nostri, della verità, ma comunque hanno dei ritardi, quindi siccome i pazienti non riescono a trovare diciamo di farsi una visita medica, sì, quindi vanno quasi sempre al pronto soccorso per dire affollano il pronto soccorso, meglio che nulla, allora una visita su Skype è già qualche cosa. Se ne parlava da tempo di questa cosa, io però la sapevo nei paesi in via di sviluppo, adesso lo fa anche l'Inghilterra, interessante. 800 24 00 24, cari ascoltatori, che cosa ne pensate? Intanto abbiamo già qualche chiamata, Alessandro da Brescia per esempio, buongiorno. Alessandro? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire Alessandro? Ma ho sentito... Non sentiamo Alessandro benissimo. Allora era una domanda sulla telefonia. Lo richiamiamo. Intanto sentiamo, proviamo questa volta. Claudio da Forlì, allora. Eccomi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Intervengo a proposito della gestione dei patrimoni sottratti ai mafiosi. Sì. E volevo proporre l'utilizzazione delle grandi capacità intellettuali presenti nelle nostre università per la gestione non solo dei patrimoni sottratti ai mafiosi, ma di tutte quelle sacche economiche che stagnano. C'è un elenco enorme. Ma lei viene dall'università, lavora all'università per caso? No, non lavoro nell'università, sono un alto dirigente dello Stato in pensione, sì, e mi occupo di altre cose, faccio consulenze. Però lei suggerisce, ecco, suggerisce insomma di utilizzare questo, anche io, quello. Il punto è questo, esiste un elenco enorme di aziende e di istituti definiti inutili. In effetti non sono inutili, sono inutilizzati. Per esempio esistono nell'ambito del CNR le aziende sperimentali di Stato, delle quali lo Stato non utilizza molto, se non la teoria. Cominciamo, visto che c'è la spending review, cominciamo a utilizzare le risorse che abbiamo e che sono non utilizzate in maniera adeguata. Le va bene Claudio, grazie per il suo suggerimento. Mi scusi se la chiudo qua, ma abbiamo il giornale radio tra poco e quindi dobbiamo fermarci. A dopo. 800 24 0024, ci risentiamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Questa era La guerra è finita dei Baustelle, una canzone del 2005 che ci suggerisce il nostro ascoltatore Michele Bozzoni, la vostra canzone, il vostro Si può fare di oggi, chiaramente in tema 25 aprilesco, La guerra è finita. Non la conoscevo questa canzone. Bravissimi Baustelle. Complimenti. Ascoltatori, 800 24 00 24, noi aspettiamo i vostri racconti su che cosa ha reso bella la vostra settimana, vogliamo tirarci sul morale anche grazie a voi cari ascoltatori e premiarvi, soprattutto. E premiarvi, oggi ci sono i biglietti della mostra in provincia di Varese del Fire Stasis a Villa Panza. Chi abbiamo in linea? Forse abbiamo recuperato quell'ascoltatore di prima, Alessandro, no non ce l'abbiamo, ne abbiamo altri di nuovi. Michele dalla provincia di Lucca intanto, buongiorno. Michele, buongiorno. Ma io non sono della provincia di Lucca. Ah, ma è almeno Michele? Io sono Michele, infatti. L'accettiamo lo stesso. Da quale provincia? No, la provincia è quasi la stessa, la provincia di Lecco, non di Lucca. Ah, allora c'è stato un misunderstanding, si dice così. O un errore di stumpa, si dice anche. Diciamo che è un errore semplicemente di una vocale, direi. Prego, Michele da Lecco. Buongiorno a tutti. Allora, volevo intervenire sulla questione dei beni sequestrati. Sì. Sono 57 anni, ho una certa esperienza imprenditoriale e di banche internazionali. Allora, prendete la relazione della Corte dei Conti 2012, sì, che dice che la problemi italiani, i problemi italiani del debito italiano sono relativi a tre ordini, e in ordine di priorità mette prima la corruzione, seconda l'evasione, terzo è la pletora di oltre 5.000 enti di spesa che sono stati istituiti esattamente per saltare tutti i patti di stabilità, eccetera, eccetera. Quindi, allora, quindi abbiamo detto bene, scusi Michele, abbiamo detto bene oggi a dire che la vera resistenza di oggi nell'attualità è la resistenza all'illegalità e quindi anche alla corruzione, cioè dobbiamo sconfiggerla, così sconfiggeremo anche il debito. Assolutamente. Mi sembra che si stia parlando di burocrazia, giusto? È una questione assoluta di democrazia, una chiamata alle armi democratiche che deve essere fatta contro la corruzione, contro tutto quello che è stato fatto in Italia negli ultimi 50 anni. Negli ultimi 50 anni è stata fatta falsa occupazione per generare ovviamente mazzette, corruzione, tutto quello che ha portato l'Italia in... Però non ho capito, Michele, che c'entra questo con i beni confiscati alla mafia. Arriviamo al dunque. I beni confiscati alla mafia, ci sono due tipi, ripeto, sì. Ho lavorato nelle banche internazionali per più di 20 anni. Ci sono due tipi di beni, uno è l'attività imprenditoriale corrente, un'altra cosa invece sono i beni che sono stati acquistati con i proventi illeciti e che sono andati a finire semplicemente per essere ripuliti, riciclati e per essere reinvestiti in nuove attività. Quindi abbiamo liquidità, che sono vere liquidità, quelle facili sequestrarle, abbiamo beni immobili e quelli bisogna riaffittarli, visto che i tempi della giustizia sono particolarmente lunghi. Bisogna riaffittarli immediatamente a prezzo agevolato, quindi sono beni usualmente di buona qualità che possono essere rimessi immediatamente a prezzo calmierato con contratti di affitto a breve termine. E quindi Michele, lei ci sta facendo una lezione di economia, però a questo punto io la fermo, perché a parte che lei parla come Corrado Passera, mi fanno notare giustamente Giorgio De Luca, cioè un po' gliel'hanno già detto, ma forse è Passera in realtà. Confessi? In realtà sono bocconiano, quindi è probabile che sia... Avete tutti lo stesso imprinting. Fate anche lezioni di dizione, diciamo, per parlare tutti uguale, eh? Beh, diciamo che siamo del tempo del vinile, quindi giriamo 78 giri, forse adesso rallento un pochettino la vita. Va bene, Michele, comunque grazie per i suoi suggerimenti, per queste sue spiegazioni, insomma, sul tema, che in realtà non era centrale rispetto al discorso che abbiamo affrontato con Carlo Rotonda di Confindustria Sicilia, era il desk per gli imprenditori che denunciano il pizzo, il sostegno anche psicologico. In coda gli avevo fatto una domanda su questo tema che ritorna, dei beni confiscati alla mafia che poi non ritornano mai in attività. Ma sì, anche perché è un tema è un tema difficile, sì, però ti incuriosisce sempre, anche perché hai un po' quella sensazione di dire vabbè, ma almeno ridateci il male che avete fatto, avete guadagnato dei soldi facendo del male, adesso tornano alla collettività. Però è come sempre, sembra che sia la cosa più difficile del mondo, è trovare un modo per cui almeno un euro torni non dico alle vittime di mafia, ma diciamo siamo un po' tutti vittime di mafia, vittime in quanto diciamo nel paese della mafia, ecco. No, ma poi giustamente dicevi tu, si parla di burocrazia, perché ce lo ricordava anche l'esponente di Confindustria Sicilia, il tema alla fine è anche quello, c'è molta istituzionalizzazione di questa gestione dei beni confiscati alla mafia e poca vena imprenditoriale, quindi esatto. Si perde tempo in lungaggini e non si fa mai ripartire le imprese, ma è fondamentale, altrimenti non si sconfigge. Vede proprio la villa lì, dice, ma quella villa lì perché non possiamo andarci ad abitare tutti noi o ridarla alla città? Poi cioè, ogni tanto, molto concreto. Poi ogni tanto succede, accadono, come per esempio la casa di Tano Badalamenti a Cinisi, adesso è la sede dell'associazione che in memoria di Peppino Impastato. Esatto, però sono emozionanti quando accadono queste cose. Tino da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire che questa illegalità oggi che non si riesce a fermare è creata anche dallo Stato con la burocrazia. Con tutte le norme, noi oggi come imprenditori siamo costretti, tutti i giorni riceviamo nuove norme, devi fare la formazione del personale, aumentano i costi. A questo punto chi opera nell'illegalità, chi non fattura, chi non lavora in nero è il nostro competitor, ma lo crea lo Stato, la cosa peggiore è che lo crea lo Stato. c'è stato qualcuno che ha tolto un po' di leggi, se vi ricordate, nel passato, ma poi ne tolgono 100 e ne mettono altre 150. Questo è vero, questo è vero. Perché ci sono le lobby che da noi in Italia non sono ufficiali, negli altri paesi invece i lobbisti sono ufficiali. Tu sai quella legge da chi è stata promulgata, da chi è stata proposta, e invece noi oggi ti fanno la leggina che magari è stata chiesta dalla società, da Tizio Caio Petroni. Grazie Tino, grazie anche a lei per aver sollevato questo argomento. Buona giornata. 800 24 00 24, tra poco ne sentiremo altre di telefonate. Adesso ci fermiamo per una piccolissima pausa. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Dal 25 aprile, cioè da ieri, però fino al 1 maggio, a Bolzano si attualizza il tema della resistenza con il Festival delle Resistenze Contemporanee, dunque declinato al plurale. Questo tema, mi sono impappinato. Praticamente il festival della nostra puntata di oggi. Sulle resistenze, sulle resistenze allargate, non solamente, cioè che cos'è oggi la nuova resistenza? Devo dire che abbiamo preso spunto anche da questa idea. E allora chiediamo qualche cosa di più al coordinatore di questo festival, Andrea Brandalise da Bolzano. Buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. È una bella giornata di sole a Bolzano? Sì, per fortuna, contro ogni aspettativa lo è. Perché in realtà un festival delle resistenze, una settimana, è anche un modo per passare una giornata in questi ponti. Ma pensavo per resistere alla pioggia, resistere alla pioggia. E anche per venire lì appunto a passare una giornata insieme a voi. Che cosa state facendo? Qual è il concept di questo? Si dice così, mi sono evoluto anch'io, vedi Gabardini, parlo inglese. Perfetto, anch'io. Il ponte ti ha fatto bene. Ti ha fatto bene. Il concept di questo festival che declina al plurale il tema della resistenza, cioè resistenze contemporanee. Poi. Sì, infatti si parte dal concetto di resistenza, quello più noto, quello storico, collocato simbolicamente anche nella data del 25 aprile, per poi cercare di portarsi più sull'attualità, quindi ragionare su come si può resistere anche oggi, quindi quali sono le forme di resistenza, quali sono i campi in cui anche oggi siamo chiamati a resistere. Fortunatamente non più con la violenza o con la guerra, resistendo con le armi, però strumenti e campi in cui resistere ce ne sono molti anche oggi, e ogni anno con l'Infestival e non solo cerchiamo un po' di interrogarci su questo. Per esempio, facci qualche esempio di qualche appuntamento e di qualche tema che toccate. Ma ieri ci siamo interrogati molto proprio sul tema della memoria, quindi resistere, se vogliamo, all'oblio, resistere al fatto di dimenticare ciò che è stato nel nostro paese, nella nostra storia, per avere nuovi strumenti di lettura del futuro. Oggi per esempio resistiamo all'omologazione, ai pregiudizi, quindi ragioneremo molto anche sul concetto dell'immigrazione, su questo fenomeno importante, sul concetto di cittadinanza oggi in Italia e in Europa, visto che in generale l'edizione 2014 è dedicata all'Europa, ai figli delle stelle, come abbiamo voluto chiamarla, per cercare appunto di vivere più attivamente, con più partecipazione, nell'Europa di oggi. Ecco, l'Europa è il tema di questo, un po' di questo festival, di questa edizione di quest'anno. Tra l'altro ci sono le elezioni europee tra poco, e io credo di capire che da voi però venga un messaggio tutto sommato incoraggiante e positivo per quanto riguarda l'Europa. Pensiamo al tema della guerra, che scaturisce, da cui scaturisce proprio quello della resistenza. Insomma, l'Europa ci sta portando un periodo prolungato di pace, a parte adesso quello che sta succedendo ai confini orientali dell'Europa e che riguarda anche la Russia. Questo è un po' anche un tema di incoraggiamento, cioè il ruolo dell'Europa positivo nella crescita positiva di ognuno di noi in questi anni, Andrea? Sì, ce ne siamo proprio, ci siamo interrogati ieri sera, avevamo ospite alle 21 Corrado Augias, che parlava un po' della fame dei totalitarismi, del disagio della libertà che c'è in Italia e in Europa, e molte domande anche dal pubblico vertevano proprio su questo, cioè se l'Europa può essere fonte di speranza, come rispondere poi a invece molte letture più negative che si hanno dell'Europa. Ed è emerso proprio questa riflessione in principio, oltre ad altro, quindi l'Europa come una grande occasione per conciliare popoli diversi, etnie diverse, storie diverse. Non a caso ha vinto il premio Nobel per la pace, è un'occasione veramente per guardare al futuro con più ottimismo, certo partecipando attivamente a quello che noi vogliamo fare anche con questo festival, cioè ricordare ai cittadini di Bolzano, dell'Alto Adige, d'Italia, che se vogliamo un'Europa migliore, se vogliamo un'Europa che risponda ai nostri bisogni, c'è bisogno che ci partecipiamo attivamente, in primis andando a votare e poi anche seguendo l'andamento di questo grande ente. Andrea Brandalise, quale altro coordinatore del Festival della Resistenza, quale altro tema, quale altro appuntamento di questa settimana che ancora vi attende fino al primo di maggio vuoi segnalare per chi avesse voglia di farsi un giro a Bolzano e venire lì a resistere insieme a voi? Ma segnalerei quello di domenica mattina, è una giornata forse dove anche più gente ha tempo di uscire e venire in piazza. Parleremo di decrescita, di ecologia, di sostenibilità. Ma avremo domani mattina piazza... quindi? Domani mattina, domani. Perfetto. Mattina. Scusa, non volevo interromperti, prego. No, nulla, la piazza si animerà di una serie di banchetti, di postazioni con varie realtà del territorio che si sono attivate per questo, e dove proporremo una serie di attività, da attività di riciclo allo scambio dei semi per una biodiversità maggiore, alla lavorazione del latte. Avremo dei masi dell'Alto Adige che verranno a raccontare come si può fare agricoltura e allevamento in un modo più sostenibile e attento all'ambiente. Quindi dando molti suggerimenti ai cittadini, di nuovo per portare poi a casa piccole pillole di cittadinanza attiva da mettere a frutto tutto il resto dell'anno. Bene, grazie mille ad Andrea Brandalise, coordinatore di questo Festival della Resistenza che si svolge a Bolzano sino al primo di maggio. Avete sentito, un appuntamento ve lo ha dato per domani. Noi purtroppo siamo in onda, se no siamo in onda. Comunque basta andare sul sito, ci sono mille iniziative interessanti, curiose. Una iniziativa ve la segnalo io invece, che non ha nulla a che fare col tema appena trattato, ma riguarda la Croce Rossa Italiana. Nel 150esimo anniversario si annuncia un concerto straordinario per raccogliere dei fondi al Teatro La Scala di Milano con l'Orchestra Filarmonica della Scala, diretta al maestro Gatti, e con un programma dedicato a Beethoven, un'iniziativa interessante a cui dedichiamo qualche minuto di attenzione. Ci spiega tutto Mania Rusca, che è proprio un membro della Croce Rossa qua di Milano. Croce Rossa di Milano organizza il suo annuale concerto straordinario di raccolta fondi al Teatro alla Scala lunedì 12 maggio alle 20.30. Il maestro Daniele Gatti, con la Filarmonica della Scala, dirigerà le Sinfonia numero 4 e numero 7 di Beethoven. Quest'anno l'evento, che è sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, festeggia i 150 anni della nascita nel 1864 della Croce Rossa, proprio a Milano, dopo la battaglia di Solferino. Per il nostro Comitato di Milano è una delle più importanti raccolte fondi, il cui ricavato ci permette di sostenere e di ampliare i progetti che da anni portiamo avanti sul territorio di Milano. È con orgoglio che possiamo affermare che tutta l'organizzazione del concerto è opera esclusivamente di noi volontari e quindi il ricavato è totalmente a favore dei nostri progetti. Sono più di 20 anni che la Croce Rossa di Milano produce una volta all'anno un concerto che ha portato alla Scala grandi direttori, Muti, Gergiev, Zubin Mehta, Prepr, Simon Rattle, Tillman, Papano e tanti altri, e grandi orchestre dai Berliner ai Wiener, all'orchestra di Dresda, di San Pietroburgo e di Santa Cecilia, e che fa di questa serata un evento molto atteso e di grande prestigio. Ora però, con la privatizzazione dei comitati, si apre una nuova fase che ha molto bisogno del sostegno e della partecipazione attiva di volontari e della città. Vi aspettiamo tutti e sarà una grande serata. E questo dunque l'appuntamento che vi volevamo assolutamente segnalare, che riguarda la Croce Rossa italiana, con un appuntamento a Milano. Avete appena sentito, 800 24 00 24, ci abbiamo un bel spicchiettino di tempo per dedicarci ai nostri ascoltatori. A quello che ha reso bella la vostra settimana, per esempio. Sì, per esempio sentiamo Alessandro da Brescia, che credo sia l'Alessandro di prima. Buongiorno. Sì, buongiorno, sì, effettivamente buongiorno. Sono io. Eccolo. Adesso la sentiamo bene. Sì. La mia settimana è resa bella dai miei colleghi, perché io sono un vigile del fuoco e 2 anni fa mi sono arrivati 15 colleghi nuovi dalle scuole centrali antincendi, era prima era da solo? Scusi, prima era da solo? Sì, anche prima era da solo. No, ero in un'altra squadra con dei vigili tutti esperti. Ah no, perché ha detto mi sono arrivati 15 perché sono nuovi, sono dei... No, pensavo che prima era solo e poi finalmente aveva trovato compagnia. Cioè, è una tragedia, nel senso che da 1 a 16 pompieri vuol dire che improvvisamente era diventata una zona sismica. No, non era quello, no. È che noi siamo un distaccamento di prima assegnazione, cioè che normalmente... Vuol dire? Normalmente arrivano i vigili che sono appena formati dalle scuole antincendi, magari sì. Sono ragazzi siciliani, calabresi, pugliesi, abruzzesi, e arrivano come prima assegnazione perché... per imparare? Nelle loro... Sì, per imparare, diciamo così. E diventa abbastanza complicato quando sono tutti giovani e tutti inesperti, perché una cosa forse importante da insegnare è che siccome noi viviamo in un mondo dove il 25% del nostro tempo lo devi passare con i colleghi, non devi soltanto insegnare il lavoro, ma anche formare un gruppo affiatato. Cioè lei da solo ha dovuto formare 15 persone, è un po' faticoso, ha ragione. No, non ero da solo, anche i miei caposquadra, i miei capi reparto. Altri colleghi. Ma perché il 25% si passa con i colleghi? Il 25% nel senso... Vabbè, il tempo che passi a lavoro. 8 ore, lavori poco, 8 ore è intanto il 33%. Noi lavoriamo 8 turni di 12 ore. Appunto, quindi è quasi il 50%. No, vabbè, ma al di là della percentuale. Diventa proprio complicato perché bisogna cercare di formare un gruppo, renderlo affiatato. Ok, Alessandro, però mi sono perso invece lo spunto iniziale che era positivo, cioè lei ha questa difficoltà nel formare nuovi colleghi, i vigili del fuoco sappiamo tra l'altro che hanno spesso problemi di organico, sono importantissimi per mille motivi, e invece poi cosa è successo? C'è stata una svolta positiva? Sì, la svolta positiva è stata proprio che ho ricevuto dei ragazzi molto ricettivi, molto bravi, che hanno capito che devono fare non soltanto il loro dovere, ma qualcosa in più del loro dovere. Io ancora adesso, stamattina sono smontato, noi tutti abbiamo dei compiti diversi giorno per giorno, perché proprio si vive una vita quasi quotidiana, cioè ci sono quelli che sono assegnati alla mensa, ci sono quelli assegnati all'addestramento, alla manutenzione, e io vedo che anche i colleghi che poi non sono assegnati a quello specifico compito danno comunque una si mano, si preoccupano, danno una mano, cioè si è vigili del fuoco 24 ore su 24 in tanti momenti, in tante mansioni, e quindi Staranno ascoltando i suoi allievi, staranno prendendo appunti. Alessandro, allora non gli faccia troppi complimenti che poi si siedono sugli allori, si montano la testa. Guardi, tra 2 mesi vanno via perché vengono assegnati ad altri comandi, quindi mi arriveranno dei vigili. Si porteranno dietro questa bella esperienza di questo loro collega che li sta aiutando così. Grazie Alessandro da Brescia, che assolutamente fa la nave scuola, perché ha detto fra 2 mesi arrivano altri 15 nuovi e lui li forma, cioè è il formatore dei pompieri. Dicevo, assolutamente entra di diritto tra quelli che si aggiudicano il premio. Assolutamente i biglietti per la mostra di Villa Panza. Vediamo se qualcun altro lo scalza di qui alla fine del programma, se no. No, però il vincitore è lui. Anna da Monza, buongiorno. Buongiorno. Volevo segnalare un si può fare, nel senso che mio figlio stava passeggiando per Monteberico a Vicenza con il cane, un bracco tra parentesi abbastanza grosso, voleva visitare il santuario e gli hanno detto che poteva entrare tranquillamente in chiesa con il cane, e così ha fatto. Il cane è stato tranquillo e silenzioso, così dopo è andato anche al ristorante con il cane, dove è stato, perché normalmente i cani non possono entrare nei monumenti tipo santuari, cose del genere. No, possono entrare. Possono o non possono di solito? Di solito non possono, ma adesso c'è una legge, sembra che sia venuta fuori questa legge, che si può entrare sia nei ristoranti e sia nelle chiese. Per cui chi ha il cane mi sembra che sia un bel... Ma solo per i cani cattolici però, o tutti i cani? Per i cani praticanti. Questo non lo sappiamo. Praticanti? Questo non lo sappiamo. Grazie. Ottimo. Anna, ma guarda Carlo, tu fai dell'ironia, ma è una cosa importante, chi ha un animale vuole andare a fare, o lo lascia a casa, oppure se non lo può far entrare... Anche perché sennò poi dopo vuol dire che non puoi andare a messa, e quindi va a finire che ti si rovina l'anima a te, perché hai il cane non può entrare, e ci mancherebbe altro. È un problema grosso. Non... Va bene, direi che anche Anna potrebbe entrare, Anna da Monza. Chissà, magari riusciamo a premiarle tutte e due, vediamo. Adesso ci fermiamo per un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Siamo entrati nel gioco hashtag inviati cercasi. Bellissimo. Ogni settimana, sì. Ogni settimana noi chiediamo a voi ascoltatori di trasformarvi in nostri inviati, ovvero di trovare un si può fare, trovare una buona notizia, una buona pratica che vi sta vicino, che conoscete bene, e di raccontarcela. E dopodiché noi sceglieremo chi ce l'ha raccontata meglio, quale notizia ci interessa di più, e investiremo uno di voi come nostro col inviato titolo di speciale inviato tra, esatto, le buone notizie. E ogni sabato successivo poi in onda, in diretta, ci racconterete, ci farete i nostri inviati, ci racconterete questa notizia. E ogni sabato e domenica diamo la parola chiave per sulla trovare l'argomento delle buone notizie. La settimana scorsa la parola chiave era stata scuola. Abbiamo raccolto un mucchio di iniziative, veramente tante. La scuola, come sempre, si rivela fonte di vita e di interesse per molte persone, come è giusto che sia, visto che ci vanno un milione di persone. Il tema della prossima settimana, lo diciamo subito, è legalità, però riguarderà la prossima settimana. Perché adesso quello di scuola l'abbiamo trovato, scelto, investito e lo sentiremo, giusto? Lo sentiamo adesso. Esatto. Paola Martinelli da Modena, genitore, volontaria, presidente dell'associazione Città e Scuola, che ci parla di un progetto interessantissimo che riguarda la città di Modena. Buongiorno Paola. Buongiorno a voi. Grazie. Buongiorno. Una notizia incredibile, cioè, poi sono cose che chi le vive le può giudicare anche come cose normali. Per chi non è a Modena e non la conosceva, questa vicenda rimane secondo me abbastanza a bocca aperta, perché per tre giorni, a tre pomeriggi a settimana, tutte le scuole medie della città sono aperte grazie al lavoro dei volontari, dei genitori, degli ex studenti, di insegnanti in pensione, di un sacco di gente che fa dopo scuola, ma in maniera proprio organica, istituzionale. Paola, sì, io sì, l'ho detta, allora, così, ci spieghi, diciamo, lei? Sì, detta così è proprio così, cioè anche da un'iniziativa di genitori, io sono una di quelle, un po' più già uscita con dei figli un po' più grandi, che comunque si è scontrata con il mondo delle scuole medie. Una volta entrati ci siamo accorti che c'era possibilità di lavorare anche lì, come si fa spesso nelle scuole invece di ordine inferiore, come le materne o le scuole elementari. E così abbiamo cominciato. Poi le cose sono andate avanti, purtroppo ci siamo accorti che i tre anni delle scuole medie sono veramente pochissimi per impegnarsi, per fare qualcosa di costruttivo. E da qui l'idea appunto di costituirci come associazione dei genitori ed esportare questa esperienza all'inizio di poche scuole a tutte le scuole medie di Modena. Senta Paola, esatto, scusi, una curiosità intanto. Lei, sì, ha detto che c'è un passaggio dalle scuole elementari e medie, per cui cambia tutto e quindi non si riesce a riproporre gli stessi metodi, le stesse cose che si fanno. Come mai c'è questo? Ma nella realtà modenese, in particolare nella mia, sì, esperienza, io ho tre figli, quindi insomma sono passate per diverse scuole, c'è un'attenzione abbastanza elevata, almeno in passato era così, adesso le cose sono un po' cambiate, dei genitori che frequentano queste scuole, quindi scuole materne ed elementari, perché i bambini sono molto piccoli, quindi i genitori, ah, poi via via che crescono si rilassa. Sono interessate ad accompagnare insomma il, sì, percorso educativo. Ma anche perché magari i giovani anche a quel punto hanno meno voglia di avere i genitori tra le scatole, anche il pomeriggio, anche diciamo. Però non, bravi, è vero, bravi, che non ci sono i problemi, ci sono, esatto, comunque, e quindi bisogna occuparsene in qualche modo. E voi, ecco, avete trovato questa strada? Questa strada è stata trovata un po' guardando la realtà che vedevamo intorno, cioè ragazzini che al pomeriggio, lasciati un po' più liberi perché i genitori lavorano, magari giravano per le vie della città un po' spaesati o comunque in cerca di qualcosa da fare. Avendo delle strutture invece come le scuole che potevano accogliere con delle attività, si è cominciato a fare qualcosa al pomeriggio, e questo ha fatto sì che i ragazzini dai centri commerciali o dalle strade limitrofe insomma convogliassero poi invece a scuola a fare delle attività che tra l'altro li coinvolgono in una maniera molto appassionata. Insomma, su base volontaria perché, però, questo coinvolgimento, Paola, non è un coinvolgimento coercitivo, cioè io decido di venire, no, o no in base a, certo, un po' a quello che mi va di fare. Certo, assolutamente sì. Cioè chi ha voglia ci va. Beh, è molto bella questa cosa, è una sorta di oratorio laico, diciamo. No? No, nel senso che lavoriamo poi in realtà anche con le parrocchie e con altre associazioni. Ma certo, no, beh, ma ci mancherebbe, non è che sì, non era di contrapposizione, quello che voglio dire è trovare un modo per occupare il proprio tempo quando uno magari è fuori dalla scuola e ha voglia di fare delle cose insieme ai propri compagni, in questo senso, esatto, lo dicevo. Il progetto infatti nasce proprio dall'idea di una prevenzione del disagio e del vivere invece il benessere a scuola, perché attraverso queste esperienze laboratoriali che i ragazzi fanno poi acquisiscono un'autostima che spendono poi anche al mattino quando sono a scuola. Mi sembra... questi sono benefici. No, è vero, e soprattutto secondo me nei confronti anche dell'istituzione scuola. Sarà che io ho fatto la scuola tedesca, dove in realtà stavo spesso... No, è vero, dove si sta dentro anche tutto il pomeriggio. In realtà si acquista un rapporto diverso anche con la scuola, proprio come edificio, nel senso che nello stesso edificio non è un posto dove uno va a fare solamente delle cose che per alcuni magari gli sembrano pesanti o brutto, che non hanno voglia di fare, ma è anche lo stesso luogo dove uno, non so, fa teatro, fa il torneo di calcio, quello che è, non è che... E quindi questo mi sembra anche un dato fondamentale, cioè che uno non vede più quell'edificio come un posto terribile. Infatti una cosa che noi notiamo sempre è il sorriso con il quale escono i nostri ragazzi dai laboratori, e questo ce lo fanno notare soprattutto le insegnanti, che a questo progetto collaborano a pieno titolo insieme a noi volontari, genitori, perché sarebbe impossibile utilizzare degli spazi senza coordinamento. Certo, ma infatti mi sembra che la parola chiave di questo progetto sia proprio il coordinamento, perché sentite qua i numeri di questa iniziativa, che può sembrare una cosa semplice, uno fa un po' di doposcuola il pomeriggio, in realtà non è così, perché ci sono 3 pomeriggi a settimana garantiti da questo punto di vista, sono 9 le scuole medie coordinate, si coordinano poi con anche i doposcuola nelle parrocchie e negli altri circoli, 300 genitori coinvolti ogni anno, 80 gli studenti delle superiori e altri volontari che aiutano, insomma, numeri impressionanti. Chi sono i principali, diciamo così, volontari che entrano in ballo, ex insegnanti, ex studenti? Allora, i principali volontari con i quali noi cerchiamo di organizzare un rapporto sono i genitori entranti nelle varie scuole, perché sono quelli che ci danno la garanzia dei 3 anni e comunque quelli più emotivamente coinvolti. Poi siamo aperti a qualsiasi tipo di volontariato, perché avendo appunto anche un sito, attraverso quello noi abbiamo reclutato soprattutto quest'anno diverse persone proprio come volontari, dal nonno al pensionato, anche all'insegnante pensionato che ha ancora voglia di investire nella scuola, ma anche al ragazzo ad esempio che sta studiando, quindi anche qualche universitario. Tantissimi sono, 80 si diceva quest'anno, gli studenti delle scuole superiori che accompagnano nell'altra attività molto importante che svolgiamo, che è quella di compiti insieme, che è proprio quello, un percorso di aiuto nel fare, nello svolgere i compiti al pomeriggio. Questo è affidato ai ragazzi delle scuole superiori, chiaramente coordinati da insegnanti anche qui e da volontari invece un po' più grandi. Ecco. Questa forte sinergia proprio tra tutte le persone che sono coinvolte, dirigenti scolastici che ci permettono, ci accompagnano, insegnanti, volontari, genitori e altri volontari che invece organizzano un po' tutta la situazione. Senta Paola, una domanda, scusi, per chi è magari un genitore che è all'ascolto, interessato, o una scuola che volesse in qualche modo anche un po' replicare questo modello, che però è intimorito magari dall'idea di dire oddio, devo fare il volontario, già devo andare a lavorare, devo portare i miei figli a scuola, c'ho da preoccuparmi della suocera, quello e quell'altro, adesso devo pure fare il volontario il pomeriggio a scuola. Quante ore un genitore deve dedicare per poter entrare in questo progetto? Molte ore o può bastare anche allora, allora, se parliamo dell'attività dei laboratori, che è quella che mi vede coinvolto in prima persona da anni, ormai sono 10 anni che faccio laboratori, prima quando c'erano i miei figli e poi dopo anche adesso continuo come volontario, in realtà dipende dalla durata del laboratorio. Noi abbiamo dei laboratori, adesso faccio un esempio, falegnameria, bicicletta, feltro, decoupage, pasticceria, cucina, primo soccorso, fotografia, eccetera, insomma non so elencarli tutti, che hanno delle durate che variano dai 4-5 incontri, quindi un genitore che ha anche poco tempo può ritagliare. Ah, uno può fare un ciclo di 4 incontri e entra in questa dinamica, poi in qualche modo ne esce temporaneamente per poi magari tornare l'anno prossimo. Ma le posso fare una domanda? Le volevo fare una domanda? Dei gruppi, quindi c'è sempre qualcuno che comunque, siamo più persone che lavorano all'interno di ogni laboratorio per garantire sempre la presenza, ovviamente lavoriamo con dei minori. Le volevo fare una domanda, mi scusi, che forse è una domanda stupida, ma ogni ragazzo può fare dopo scuola solamente nel proprio istituto, nella propria scuola, o se c'è un corso che gli piace nel dopo scuola di un'altra scuola, tipo che solo lì fanno taglio e cucito piuttosto che tennis da tavolo? Sempre andare a complicare le cose. No, volevo capire, no, perché adesso faceva un elenco bellissimo, mi sembrano tantissimi progetti. Magari uno è interessato. Non credo che in tutte le scuole ci siano tutti i corsi, dal decoupage al tennis da tavolo alla dama d'altura. E allora mi chiedevo se uno poteva addirittura, perché allora diventa bellissimo, Modena diventa... Allora, non so, al momento assolutamente no, perché ha questo progetto proprio una valenza educativa, anche quella di rimanere nei propri territori, consentire lo spostamento dei ragazzi in modo autonomo, garantire le famiglie della sicurezza sia anche nel tragitto casa-scuola, perché chiaramente noi abbiamo necessità di avere questa sicurezza. cooperazione, quindi questo assolutamente nella scuola del bacino di utenza, insomma, quindi nella scuola frequentata dall'alunno, anche perché questo fa sì che lui conosca meglio i ragazzini della propria scuola. No, no, è chiarissimo, è chiarissimo, era solo una curiosità. Che non è poco, ecco. Va bene, comunque complimenti a Modena per complimenti. Questa iniziativa che va avanti da un po', da qualche anno credo. Sì, da qualche anno si è soprattutto allargata, anzi, sì. Ecco, invece sono i genitori che si possono muovere, ci sono scuole, quelle che ho elencato, esempio i laboratori che ho elencato della nostra scuola, tanti genitori, quest'anno ne abbiamo 100 genitori su circa 700 ragazzi, questo è l'istituto, quindi 100 genitori è una percentuale molto alta di disponibilità. E allora in questi casi, quando c'è qualche genitore un po' più esperto, lo mandiamo anche in trasferta a fare laboratori in altre scuole. Quindi sono comunque di fatto muovono, voi riuscite davvero a garantire 3 pomeriggi a settimana coperti in ogni scuola media, è così? Tra le due attività, quella laboratoriale gestita dai genitori in modo assolutamente, e quella invece di dopo scuola, di dopo scuola vera e propria, che è un'attività invece proprio di più curriculare, seguendo i ragazzi nel svolgimento dei compiti. E in questo caso siamo aiutati anche da altri 19 dopo scuole esterne alla scuola, gestiti da parrocchi o associazioni di vario tipo, che però sono sempre coordinate e hanno un punto di riferimento con noi, per cui c'è sempre questo aggancio, l'aver messo in rete queste sinergie fa sì che ci sia sempre uno scambio continuo. L'ultima domanda, Paola, chi è che tira le fila un po' di questo coordinamento? Cioè sono i presidi, il provveditorato, un'associazione di genitori, che chi è? Siamo proprio noi, l'associazione dei genitori, che però all'associazione dei genitori c'è un comitato scientifico composto da insegnanti che ci danno il supporto necessario, tante volte anche l'indice. Complimenti Paola, perché è davvero bello quello che fate, è davvero sorprendente. Grazie Paola Martinelli, grazie per essere stata con noi. Grazie, avete sentito, è veramente notevole tutto quello che fanno a Modena, incredibile. La prossima volta dobbiamo sentire anche uno dei ragazzi, perché magari dice: a me il dopo scuola fatto così non mi convince. Che ne so? Magari, cari ascoltatori più giovani all'ascolto, mettetevi in linea 800 24 00 24, oppure scriveteci per commentare dal vostro punto di vista questa iniziativa, che è la messa in, come dire, a sistema di un qualcosa di semplice, se vuoi anche banale, un dopo scuola. Però la scuola ci mette il locale pubblico, quindi non devi andarti a trovare una parrocchia o un altro luogo. Certo. Dove farlo, in più ti crea la rete con tutti i volontari, i ragazzi ce l'hai a disposizione, ecco fatto. Però in altre città questa cosa non esiste. Si fa, esatto. Si può fare, si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo per sentire qualche ascoltatore, perché no? Enrico da Rimini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire Enrico? Io volevo segnalare l'associazione Rimini Autismo, che ha organizzato Friendly Beach Autismo. Noi stiamo formando bagnini, albergatori, personale dei parchi tematici, i vigili urbani e gli autisti dell'autobus, proprio all'accoglienza delle persone con autismo e delle loro famiglie. E lo state facendo proprio in questi giorni? Sì, il 6 e il 7 di maggio partono le formazioni per i bagnini, quindi ci sarà un territorio intero dedicato e adatto all'accoglienza delle persone con autismo. E questo, cioè, ma voi formate dei bagnini affinché loro siano in grado di accogliere persone con autismo, o formate delle persone con autismo affinché possano fare i bagnini? No, tutte e due, perché quest'anno 5 dei nostri ragazzi lavoreranno presso i bagnini che accolgono nostre famiglie. Questa parte mi sembra ancora più bella, se mi posso permettere. Ma certo. Poi però, è ovvio, però l'autismo... guardi che diffondere una piccola conoscenza sull'autismo permette una qualità di vita enormemente migliore alle nostre famiglie. Immagino. Lo so e bene. Quindi il fatto di poter diffondere su larga scala poche nozioni significa non dover ripetere lo stesso disco tutte le volte che si incontrano delle persone. È un po' quello che ha fatto il film Rain Man, giusto? Esatto, beh, rimane. Ha fatto bene o ha fatto male? Certo. Quindi beh, dobbiamo sentire e vedere questa disabilità che sta diventando la maggior causa di disabilità infantile, perché ha un'incidenza in crescita. È in crescita l'autismo, quindi, Enrico? In forte crescita. Non riesce a capire il perché, e questo potrebbe in qualunque momento toccare qualcuno di noi, quindi essere pronti, conoscerlo e sapere come affrontare le prime difficoltà è il segreto per risolvere gran parte dei problemi, perché grazie. Molto spesso si rimane immobili per i primi anni, che sono gli anni più importanti. Grazie Enrico da Rimini per questa telefonata, che sicuramente ha reso più bella anche la sua settimana. Adesso invece facciamo una cosa incredibile, perché andiamo a Novara, che si trasforma per un giorno in sede ufficiale del Guinness dei primati. Sentirete perché tra poco. Come bello lavarsi. Voglio lavarmi il piede sul lago di Gargiulo, voglio sciacquarmi il naso sul lago di Gemona, ti laverai la faccia sul lago Tanganica, ti sciacquerai la bocca. Ho detto Novara e diciamo anche altre due parole note agli ascoltatori di Si può fare. Camilla Masala, buongiorno Camilla. Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno, ciao Camilla. Camilla, ciao. Fondatrice di Pupulito.it a Novara, è un sito ma è soprattutto una lavanderia di pannolini lavabili. Perfetto, avete sentito bene, Pupulito. Pupulito. No, magari qualcuno dice, ma ho sentito Pupù. Sì, Pupulito. Camilla vuole salvare il mondo, io dico, dalla cacca, ma soprattutto dalla plastica, vero Camilla? Esatto, è il bello che oggi lo cambiamo tutti insieme, nel senso che partecipiamo a un Guinness dei primati. Ma che succede? Cambiamo il pannolino o cambiamo il mondo? Tutte e due. Cambiamo il mondo e cambiamo partendo dai bambini, facciamo così, nel senso che oggi a Novara ci sarà il Grande Cambio, che è un evento in contemporanea mondiale per battere il record dei primati dell'anno scorso, ovvero 8.301 bambini cambiati simultaneamente col pannolino lavabile. Beh, è bellissimo, è un'operazione straordinaria. Cioè, 8.301 bambini cambiati in contemporanea, c'erano 8.301 giudici perché che si tenevano collegati al telefono. Come hanno fatto a fare questa... In realtà i giudici ufficiali sono uno, in realtà due per 50 bambini. Avviene in un luogo unico, avviene in piazza? Noi siamo in un palazzetto dello sport al Palaverdi qui a Novara, ma ci sono altri paesi. In un palazzetto dello sport a cambiare 8.000 bambini. Pieno di bambini, pieni di cacca. No. 8.302 bimbi in tutto il mondo, Carlo. A Novara quanti sarete per cercare di battere questo primato nel mondo? Allora, gli organizzatori dicono che ci saranno 10.000 bambini. Sono ottimisti. Le forze dell'ordine. Ci sono anche già i dati della questura sulla cacca dei bimbi. Interessante questa operazione. Senti, no Camilla, ma invece lì a Novara sei riuscita, tu che sei sicuramente l'animatrice per quanto riguarda Novara, di questa, ma in Italia partecipa solo Novara o ci sono anche altre città? No, allora siamo due città, in provincia di Torino c'è un'altra città e poi ci siamo noi come città di Novara. Diciamo che noi siamo il capoluogo, ecco. Ma io non ho capito come funziona. In tutto il mondo in contemporanea vi date appuntamento per cambiare X bambini, è così? Sì. Esatto, il 26 aprile alle ore 11. E quanti saranno a Novara di bimbi? Speriamo una trentina almeno, perché bisogna essere almeno 25, altrimenti non veniamo conteggiati. E poi devono essere tutti alti, al massimo 99 centimetri. Esatto, sotto il metro. Se c'è il bambino troppo lungo non lo può portare. Se sei più alto di un metro, ancora col pannolino, credo che ci siano qualche problema. Non ne so niente, non ho figli, quindi mia figlia l'ha tolto a 2 anni e mezzo, è stata abbastanza precoce. Camilla, quindi voi puntate a essere una trentina, più Torino, insomma l'Italia potrebbe dare un apporto di una cinquantina di bambini. Più o meno sì. È un po' poco, è... però. Neanche su 10.000, devo dire. Siamo indietro. Non so, però il prossimo anno ci rifaremo. Adesso vediamo un attimino oggi che risultato riusciamo a ottenere. Il bello è che ci sono già online le prime foto, ad esempio, delle Filippine o la Russia, dove ci sono già paesi che l'hanno già fatto il cambio. Ah, per una questione di fuso orario? Esatto, esatto. Ah, beh, ma è bellissimo. Cioè, siete più organizzati del Super Bowl. Cioè, è una roba straordinaria, veramente. Senti, io so che c'è lì con te Marzia di Lega Ambiente. Se vuol dire un messaggio al mondo, però in 30 secondi, perché poi dobbiamo chiudere, glielo facciamo dire. Va bene, vi passo Marzia De Marchi. Marzia De Marchi, buongiorno. Hai 30 secondi. In 30 secondi, anche meno, per dare un messaggio al mondo. Possiamo fare di più, possiamo fare meglio e partiamo dai piccoli gesti per salvare il mondo. Sono stata abbastanza sincera. Perfetto. Mamma mia, incredibile, grazie. Da Guinness dei primati, grazie anche questo mille. Quel messaggio, 8 secondi. Beh, allora ce ne avanzano altri 15. Camilla, ci sei? Sì, Camilla, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, ti vogliamo risentire intanto per sapere com'è andata. Scrivici su Facebook, su Twitter, intanto per tenerci aggiornata attraverso i social. E in bocca al lupo. In bocca al lupo, ciao. Vi mando la foto. Ciao. Va bene, va ciao. Bene. Ringraziamo. Devo ringraziare Andrea Piana oggi. Sì. Perché ovviamente che mi manda le notizie insieme a Giorgio De Luca. Li devo ringraziare entrambi perché ho detto un'unica notizia, ma ne avevo di più. Ce n'erano di più. Grazie anche a Peter Bescapè in regia. Ci sentiamo domani. Buona giornata da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Ciao.